Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di tartufo e io ho intitolato questa trasmissione "Chi l'ha visto? Un 2011 in astinenza da tartufo?". Bene, il mio interrogativo si riferisce non solo al momento economico molto particolare, ma soprattutto anche alla carenza di tartufo dovuta alla stagionalità. Ma lo andremo a vedere perché faremo un bel giro dell'Italia, che sempre più propone nuove realtà dove si trova tartufo. E quindi diciamo un'Italia ormai caratterizzata da tante nuove realtà che producono tartufo, dove si trova tartufo. Un tempo erano 4-5 i luoghi, mentre gli altri erano completamente sconosciuti. Ormai sono venuti tutti alla ribalta, anche piccolissime realtà. E di questo ne parliamo con Giancarlo Picchiarelli, che è presidente delle Città del Tartufo. So che sta per salire su un treno, quindi saremo rapidissimi. Buongiorno Picchiarelli. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta, quante sono le città del tartufo? Sono 51 e per città intendiamo comuni, ma anche province, comunità montane e la regione Molise. Quindi la regione Molise intesa che tutta la regione è ricca di tartufo? Sì, infatti è una delle regioni che producono maggior tartufo nel nostro paese. Quindi dopo la regione Molise, diciamo, qual è l'area che emerge, che viene dopo, diciamo? Ma noi comunque abbiamo una realtà in Italia costituita dall'intera fascia appenninica, quindi dal Piemonte in realtà fino alla Calabria. Abbiamo il tartufo e soprattutto il tartufo bianco, però anche nelle altre specie abbiamo sicuramente una grande produzione. Per cui le regioni simbolo, ovviamente, come ben lei sa, insomma, il Piemonte, ma anche la Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, anche la Liguria confine con il Piemonte, c'è il tartufo bianco. E quindi diciamo sono 11 regioni in realtà che possono vantare questa forte presenza del pregiato tubero. Bene, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666 chi volesse intervenire sull'argomento. Allora le chiedo a questo punto, com'è l'annata 2011? Beh, come anticipava anche lei, la stagione non è delle migliori in quanto le piogge si sono fermate a luglio, il che era anche promettente per la stagione autunnale, ma poi il grande caldo africano che è perdurato per circa 2 mesi in realtà ha fermato un po' tutto quel processo di formazione del tartufo, che ovviamente insomma ha bisogno di un certo tempo, un certo periodo. Soprattutto pensiamo che occorrono almeno 3 mesi dalla prima formazione per arrivare a una maturazione di qualità. Ecco, e se hanno le indicazioni di un prezzo medio che gira, sì, per l'Italia? Certamente, io partecipo un po' a tutte le mostre mercato più importanti del nostro paese e proprio per questo motivo c'è sì una presenza di tartufo non di grande quantità e anche dal punto di vista della pezzatura abbastanza ridotto, perché mancando la pioggia è mancata proprio quella parte di umidità che fa ingrandire, diciamo, le pezzature, per cui un prezzo medio di mercato per il tartufo bianco è ristretto tra i 2 e i 3 mila euro secondo la pezzatura. Poi è chiaro, ci sono anche dei picchi in alcune realtà, soprattutto in presenza anche di pezzi molto pregiati, parliamo anche dei 5.000 euro al chilo, però diciamo che per il consumo possiamo avere un prezzo di riferimento tra i 2 e i 3.000 euro. Bene, io la ringrazio Picchiarelli, grazie del suo intervento, ci ha dato così un primo flash dell'Italia del tartufo. Io alle aree che ha, diciamo, di cui ha parlato lei aggiungo anche il Friuli e poi vedremo, c'è una realtà interessante anche in Friuli. Però abbiamo in linea con noi un grande chef che abbiamo chiamato anche a proposito dell'Anisakis, ma sicuramente è un jolly, Mauro Uliassi. Buongiorno Mauro. Ciao, buongiorno, come stai Davide? Bene, io ti chiamo perché tu domenica hai fatto, diciamo, una performance sul tartufo ad Acqualagna, che è un'altra delle capitali del tartufo in Italia. Cioè tu e Bottura, che siete due grandi chef stellari, diciamo così, sì, vi siete esibiti in un modo di come utilizzare e come, diciamo, cucinare il tartufo, se non erro. Sì, sì, esatto, ero con il mio amico Massimo, il fratello, ci vogliamo molto bene, eravamo molto contenti di essere insieme in questa situazione, tra l'altro eravamo a Caracas anche la settimana prima. Abbiamo fatto questo workshop di fronte a un centinaio di persone ad Aquaragna, che è questo, diciamo, che è la capitale del centro Italia del tartufo. Sentivo prima il commentatore che diceva che quest'anno c'era una crisi un po' del commercio del tartufo, proprio dato dalla siccità di cui soffre molto sia il tartufo bianco che il tartufo nero. In effetti i prezzi di mercato sono quelli che indicava l'altro signore. Comunque noi siamo arrivati di moltissimo, abbiamo fatto questo workshop insieme presentando piatti per uno, e noi abbiamo presentato un fondente di patate con radici di alberi campo e del tartufo nero uncinato e dei cappelletti fatti a mano tirando la sfoglia con il mattarello sulla tavola di legno, lo stesso con un parmigiano e questo tartufo bianco. Massimo mi sembra che invece ha presentato il suo macaron che era fantastico, e la neve che si scioglie da sole, che sono delle lumache con del tartufo bianco. Ecco, è stato molto divertente, e l'Aqualagna è veramente una cittadina fantastica. Voglio chiederti questo: tu sei un po' considerato, diciamo, un mago del pesce, il rapporto tra tartufo e pesce? Sì, diciamo che noi non lo usiamo moltissimo anche per evitare dei sovraccarichi di prezzo. Io per esempio dico sempre che se uno vuole mangiare il tartufo al ristorante senza nessun problema, se lo porta. Uno mi chiama e dice: guarda, io ho 100 grammi di tartufo, vorrei utilizzarlo in una cena da te, e quindi noi gli calibriamo la cena sul tartufo che si porta. Non lo diciamo proprio per questo motivo, perché già una cena di pesce comunque ha un suo costo. Con un tartufo, considerando che ci vanno almeno 5-6 grammi a portata, già insomma comincia ad alzare il prezzo di 50, 60, 70 euro a pranzo. E il tartufo sul pesce viene utilizzato diciamo su pesce bollito quasi neutro con delle verdure. Io amo moltissimo utilizzarlo con la selvaggina, e quindi faccio l'abbinamento opposto, no? Quindi i due cibi primordiali, la caccia e la pesca, e in questo periodo la caccia con il tartufo si addice benissimo, anche perché poi la selvaggina ha le stesse caratteristiche organolettiche del pesce, avendo un quantitativo di grassi molto molto basso, intorno al 5%, e ha questa sapidità intensa, anche un po' marina qualche volta. Bene, grazie Mauro, so che sei in viaggio, ti ringrazio della tua testimonianza. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tartufo, di prezzi, di quantità, di abbinamenti. Bene, ricordo, numero verde 800 24 00 24. Ho un radioascoltatore che mi manda un sms e mi chiede se il tartufo è o non è un tubero. Sì, è un tubero ipogeo, quindi è un fungo ipogeo, non è un tubero. Quindi sempre si dice tubero erroneamente, perché il tartufo viene chiamato tuber magnatum pico, quindi molti, diciamo, commettono questo errore, dicono tubero, in realtà è un fungo ipogeo. Bene, sentiamo di ascoltatore Andrea da Torino. Grazie Andrea. Buongiorno. Buongiorno. No, volevo solo portare una testimonianza di questo grande tubero. Noi abitiamo a Torino, abbiamo due amici, due signori anziani che vanno a Tartufi nell'Albese, esattamente nella zona di Canale, e lo fanno proprio di passione. Prendono i loro cagnolini, vanno a cercare i posti dove c'è il buon tartufo bianco, lo prendono, lo portano a casa e lo utilizzano. È caduta la linea, probabilmente. Bene, cerchiamo di riprendere il nostro Andrea da Torino. Sentiamo Giorgio Menna. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Davide, ben ritrovato, buongiorno ai tuoi ascoltatori. No, volevo porre l'accento brevemente su, tu sei uno dei protagonisti, sul quel, diciamo, aspetto un po' anche drammatico che sono le sagre un po' anche taroccate, dove sagra del tartufo, sagra del tartufo qui, sagra del tartufo là, in realtà poi neanche l'ombra del tartufo. Allora ecco, avvertire anche i tuoi radioascoltatori di questa problematica, andate in queste sagre, però fatevi vedere dove sono i tartufi, insomma informatevi, ecco, perché poi dietro al tartufo, come tu ci insegni, ci sono veramente, c'è un, come dire, un mondo taroccato a 360 gradi. Il tartufo è una cosa seria, è anche un momento, anche, come dire, di grande cultura. In questo caso vorrei ricordare anche quello di Savigno nella provincia di Bologna, ma ecco, andiamo ad informarci una volta che viviamo queste sagre, se veramente producono cultura, territorio e quant'altro. Bene, grazie Giorgio, ma io credo che diciamo di sagre sul tartufo ne conosco poche, sono i mercati del tartufo, in questo momento ci sono un po' in tutta Italia, ci sono le fiere del tartufo, sì, hai ragione, un controllo è sempre necessario, vedo che anche dalla fiera mi segnalano la fiera del tartufo e del miele a Casteggio, in Oltrepò Pavese, un radioascoltatore dice anche l'Oltrepò Pavese zona di tartufi. Bene, come dicevo prima, sembra che tutta l'Italia sia diventata zona di tartufi, forse in passato il tartufo c'era anche in queste zone minori che non erano note, ma probabilmente se ne parlava ben poco, quindi così è abbastanza stupefacente, 51 aree identificate come tartufo, però come dicevo oggi ne scopriremo anche altre che non sono neppure, credo, in questa, diciamo, associazione, che sono l'associazione dei comuni, appunto, anzi delle città del tartufo. Bene, sentiamo un altro radioascoltatore, Amerigo da Lecco. Buongiorno Amerigo, anche a Lecco c'è tartufo? Buongiorno, sì, sì. Come sì? Io sono stato, è stato mio figlio giù a Assisi, lì, come si chiama, no, Assisi, lì a Gubbio. E c'è stato la fiera la settimana scorsa, ma ho portato a casa un tartufino. Vabbè. E senta, io intanto buongiorno, non è anche salutato. Buongiorno. Chiedevo, come ho chiesto lì all'impiegata sua, se è possibile, perché io sono di Lecco, ma sono di origine ferrarese, no? Nel paese dove sono nato io, e che ogni tanto vado giù, c'è un territorio molto ristretto comunque, un parco, diciamo così, patrocinato anche dalla regione, dove hanno impiantato degli alberi con la presunzione, cioè io dico presunzione perché non riesco a capire se si può fare questa cosa, e lo chiedevo a lei, degli alberi che dovrebbero incentivare o comunque creare l'ambiente per la crescita del tartufo. Questo è possibile Guardi, ci sono dei tentativi in giro per l'Italia, ci sono, e come, alcuni hanno dato risultati positivi, altri no, bisogna vedere le condizioni ambientali, bisogna vedere molte cose, però del tartufo d'allevamento, diciamo, è stato fatto, gli allevamenti sono stati fatti e, come dicevo, alcune università si sono occupate di questo argomento e credo che si possa anche tentare, bisogna vedere se la zona di Lecco dove lei abita è adatta o meno a questo tipo, così, diciamo, di investimento. Grazie Amerigo. Allora, ora abbiamo con noi, appunto, parlavo di aree così non molto conosciute per il tartufo, eppure, come dicevo, sono emerse e stanno emergendo. Parlo di Muzzana in provincia di Udine, e abbiamo con noi Vittorino Gallo, che è il sindaco, ma nonché anche fa parte dell'Amatori Tartufo di Muzzana. Buongiorno Gallo, buongiorno. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, anche la zona di Muzzana è ricca di tartufo. Diciamo che c'è una presenza discreta di tartufo, in quanto Muzzana è praticamente ormai rimasta una delle poche realtà dove ci sono i relitti dell'antica foresta lupanica, e in questi boschi, che sono delle latifoglie, dei quercocarpinetti, si trova il bianco presato. Cosa che fino a una decina d'anni fa non sapevamo, in quanto in Friuli la cultura del tartufo di fatto non ha mai preso piede. Adesso, in virtù del fatto che la regione ha fatto una mappatura praticamente della regione, abbiamo scoperto che c'è il bianco pregiato, e così ci siamo, come dire, svegliati, e abbiamo anche iniziato questa attività a livello amatoriale di raccolta, e facciamo anche una fiera. Ecco, una cosa sorprendente, ho letto, e lei mi spieghi appunto qual è l'arcano di questo, che voi avete praticamente un tartufo, come posso dire, certificato. Esattamente. esattamente, è l'unico tartufo, diciamo, in questo momento al mondo che è certificato PEF, che è una ecocertificazione che dimostra la ecosostenibilità, diciamo, principalmente del bosco, e però è stata estesa anche a tutti i prodotti del sottobosco. Ed è un'operazione che è andata a termine non più tardi di un mese fa, e permette alla Muzzana Amatori Tartufi di essere di costituire la catena di custodia del tartufo stesso, del tartufo bianco pregiato raccolto nel bosco di Muzzana. Di boschi ce ne sono due: uno è quello comunale, che è ecocertificato, diciamo ecocertificato PERC, e su questo i funghi raccolti in questo bosco sono praticamente gli unici al mondo in questo momento che sono dotati di questa ecocertificazione. Bene, rimanga con noi, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sentiamo Luca dalla provincia di Como, un radioascoltatore. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Intervengo per questo motivo. Da gastronauta volevo fare riferimento agli interventi precedenti riguardo al prezzo del tartufo, prezzo attuale del tartufo. Ecco, c'è una certa discrepanza con quello che io nella realtà di oggi invece ho riscontrato. Sostanzialmente i prezzi oggi che si trovano nei negozi oppure da quelle persone che si spacciano come esperti ed eventualmente procuratori di questa fantastica materia, viaggiano mediamente intorno ai 5.000 euro al chilo. Luca, rimanga con noi, sentiamo un secondo. Guardi, abbiamo anche con noi Gianfranco Berni, che è un personaggio importante tra i tartufai delle crete senesi. Buongiorno Berni. Buongiorno a tutti. Qual è il prezzo medio che gira diciamo in Toscana, in queste zone appunto delle crete senesi, che sono molto importanti per il tartufo? Il prezzo medio si stabilisce un po', ma diciamo che il prezzo varia da 1.500 a 2.500, diciamo, ecco, per a seconda della pezzatura, a seconda della bellezza del tartufo. Ho capito, ecco, rimanga con noi Berni, sentiamo Vittorino Gallo a Muzzana, qual è il prezzo medio? Diciamo, noi come quantità non è che siamo importanti dal punto di vista commerciale, ma diciamo in questo momento siamo anche noi su quella cifra lì, dai 2 ai 3 mila al chilo. Bene, Luca, ha sentito? Io ho sentito, però ripeto, il riscontro è completamente diverso, non parlo solo per me, ma anche per alcuni miei carissimi amici appassionati appunto di questa materia. Noi abbiamo serie difficoltà a capire soprattutto a chi rivolgersi, se esiste magari un consorzio al quale fare riferimento, trovare qualcuno che possa... Non esiste un consorzio, però esistono sicuramente dei negozi specializzati, e esistono anche i mercati, come abbiamo sentito, dei più importanti luoghi dove si raccoglie il tartufo. Mi sembra che questa cifra sia un po' fuori dalla realtà. Anch'io ho fatto dei controlli, ma oltre 3.500 non sono andato. Se poi ci sono dei ricarichi così spaventosi dei negozi, allora questo è un altro tipo di discorso. Comunque lo continueremo. Ora devo passare la linea alla regia. Ricordo, numero verde, proprio su questo argomento dei prezzi, intervenite da i prezzi che state pagando in giro per l'Italia, numero verde 800 24 00 24. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tartufo. Ho un sms che mi chiede di specificare se è bianco o nero. Abbiamo sempre parlato di bianco, tuber magnato un picco, detto dall'inizio, quindi questo è il prezzo di cui stiamo parlando. Io voglio chiedere a Gianfranco Berni, appunto, che è stato anche presidente dei tartufai delle crete senesi, di dirmi chi diciamo cerca tartufo, può vendere tartufo, deve avere un patentino particolare, ci sono regole particolari, o tutti possono cercare tartufo? Allora, per cercare tartufo bisogna sostenere un esame, prima del quale vengono fatte alcune nozioni, diciamo, per l'avviamento alla ricerca, insomma. Comunque sia, ci vuole per effettuare la ricerca del tartufo, ci vuole un tesserino rilasciato dal comune di residenza con fotografia e un versamento annuale. Quindi questi squilibri di prezzo che abbiamo sentito da questo diciamo ascoltatore di Como, secondo lei sono anomalie oppure succedono che diciamo nelle rivendite il prezzo salga diciamo velocemente dalla base, allora, cioè da quando parte? Allora succede così che ogni mano che passa nei tartufi ci viene fatto un ricarico anche certe volte anche enorme, insomma. Poi c'è da fare un'altra precisazione, ci sono dei tartufi, dei pezzi rari, che il pezzo raro non ha prezzo, insomma, a seconda di come si presenta a vista e all'olfatto ha dei valori superiori a quello che viene detto, che ho detto prima anche io. Certo, ecco. Certo. Un tartufo da 1,5 in su, diciamo, può raggiungere anche 3.500-4.000 euro al chilo. Grazie a Gianfranco Berni. Rimanga ancora con noi Rosario da Catania, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno Davide e buongiorno a tutti. Io non so se questa domanda è già stata posta, se così mi scuso, ma no, evidentemente non ascoltavo. Desideravo sapere se risulta che in Sicilia ci siano tartufi e in quale zona in particolare, e questa è la prima domanda. La seconda è se vi risulta che è possibile addestrare un cane di buona razza, un cirneco dell'Etna che io posseggo, se si può addestrarlo a provare tartufi. Grazie Rosario, alla prima domanda le rispondo io. Non mi risulta che in Sicilia, in Sardegna ci siano tartufi, oppure saranno diciamo abbastanza rari da non essere così menzionati o essere così apparsi alla ribalta. Quindi sulla seconda del cane magari ne parleremo poi con qualche esperto. Volevo sentire ancora Francesco dalla provincia di Verona. Buongiorno Francesco. Eccomi qua, grazie. Senta, io telefonavo perché recentemente sono stato a una sagra del tartufo a Borgo Franco sul Po. Sì. È una zona che noi andiamo tutti gli anni a mangiare il tartufo. Quest'anno abbiamo trovato dei tartufi profumatissimi, ma con un gusto quasi assente, proprio nessun gusto. Beh, quanti giorni erano che avevano diciamo trovato, cavato quel tartufo? Perché dopo sette giorni sicuramente, anche se è stato tenuto male, il profumo se ne va. No, il profumo c'era. Sì, dico, ma anche il sapore molte volte se ne va. Beh, diciamo che il tartufo è essenzialmente profumo, è un po' meno sapore. Non so se la pensa alla stessa maniera Vittorino Gallo. Buongiorno di nuovo, sì. Ecco, sì, sicuramente il tartufo è profumo, questo è pacifico, dopo dipende anche molto dalla zona nella quale è cresciuto, dipende evidentemente dal substrato nel quale ha incontrato il micelio che l'ha alimentato, e poi sicuramente è verissimo quello che dice appunto che è possibile una conservazione non adeguata abbia portato ad un cambiamento di quelle che sono le caratteristiche iniziali. Bene, grazie a Vittorino Gallo, la ringrazio, e a buongiorno Francesco. A tutti voi. Sentiamo Stefano da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Niente, io volevo portare un contributo per quanto riguarda i prezzi medi del tartufo, sia del bianco che del nero. Proprio questa settimana ero ad Alba, vado lì spesso e mi capita sovente di acquistarli. Il prezzo medio del bianco attualmente è intorno ai 3.500, mentre per quanto riguarda il nero il prezzo medio va dai 5-800. Discorso diverso invece se si va su una piazza tipo di Milano, ovviamente ci sono dei ricarichi, però comunque sono molto elevati. Mi è capitato anche spesso fare dei confronti, in quanto appunto, come dicevo prima, sono un estimatore, se posso, quando posso ne prendo qualcuno. I prezzi medi di Milano possono arrivare anche su tagli diciamo da consumo familiare, mettiamola così, quindi non tagli anche eclatanti da esposizione o comunque da record, sì. Intorno agli 8.000. Bene, mi è capitato spesso. Bene, grazie. Volevo tornare, ora abbiamo diciamo un'altra realtà dei tartufi che voglio sentire, abbastanza poco conosciuta, quella del Polesano, dell'area del Polesano. Abbiamo con noi Antonio Baccini, che è vicepresidente dell'associazione Amici Tartufo Polesano. Ebbene, io un paio di anni fa, mi sembra 2 anni fa, ero in giro per il Polesine a cercare prodotti, a scoprire nuovi prodotti, mi sono incontrato con un gruppo appunto di cercatori di tartufo che si stavano costituendo in associazione, e forse probabilmente è questa qui Amici del Tartufo Polesano. Buongiorno Baccini. Buongiorno. Buongiorno. Allora Baccini, La vostra area, diciamo, è ricca di tartufo da sempre, credo, però solo ultimamente avete cominciato a organizzarvi. Sì, sì, sì, diciamo che al Pulesine è un po'. c'è un po' di tutto, c'è, ecco. Diciamo che il bianco lo troviamo abbastanza, quest'anno però è un, com'è che si dice, un anno un po' particolare, con la grossa siccità che c'è stato, si trova meno quest'anno, si trova. Senta Bacini, il prezzo qual è, visto che è raro quest'anno, dalle vostre parti? Ma guardi, io sono proprio un amatore. Il prezzo, diciamo che si aggira, se noi lo vendiamo a un commerciante, diciamo sui 200. 200, quindi sì, 200 a letto, insomma, ecco. E nei negozi cosa va? 3.000, diciamo? Sì, diciamo che ho sentito un po' prima la signora che diceva sono quelli i prezzi, insomma, ecco. Ho capito, bene, quindi abbiamo scoperto che anche nel Polesano, esattamente in quale area del Polesine è ricco di tartufo, qual è l'area? Beh, l'area, diciamo che dal basso Polesine fino all'alto Polesine. Sa cosa? Ci sono queste le famose piazze, che ci sono questi bellissimi tigli, queste bellissime querce, e lì si trovano, insomma, non in tutto, si trova. Ho capito. Grazie Bacini, a presto. Sentiamo Paolo da Roma. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Mi dica. Volevo segnalare sempre sui prezzi dei tartufi, che soprattutto quelli del centro Italia hanno dei prezzi, diciamo, relativamente più bassi a quelli che sentivo in trasmissione, soprattutto se uno anche tramite internet, ci sono eBay o altri siti dove, per quanto mi riguarda, è possibile trovare dei prezzi più o meno intorno ai 150 euro per le grammature dai 10 ai 40 e addirittura anche sotto i 1000 euro per quelle proprio piccoline, diciamo intorno ai 10 grammi. Senta Paolo, lei come fa a sentire il profumo e a capire che quel tartufo via internet, certo, è accettabile? Certo, bisogna fare delle prove, io ne ho fatte e devo dire che non in tutti i casi, ma in diversi casi non, diciamo, il prodotto era abbastanza qualitativamente buono. Quindi ha continuato a comprarlo? Ho capito. Bene, la ringrazio. Io voglio tornare a Berni. Voglio tornare a Berni per che ci dia così l'idea del tartufo ideale. Quanto deve pesare? Sì, certo, poi si cambia da zona a zona, da pianta a pianta, ma più o meno c'è una misura ideale sulla quale si sbaglia poco di tartufo? Ma guardi, a stagioni normali, diciamo, perché quest'anno è un'annata proprio particolare, come ho sentito anche altri colleghi, è un'annata particolare, siccitosa e via discorrendo, ma comunque ecco qui il tartufo che va di più, diciamo, il più preteso è il tartufo che va da 20 a 60 grammi, perché è più confacente, diciamo, con il consumo della famiglia e via discorrendo. E poi è un tartufo che si conserva abbastanza bene. L'unica cosa è che, allora, diciamo, il valore a quel tartufo che cosa glielo dà? Glielo dà la vista, il bel colore giallo, la forma rotondeggiante e liscia, tipo pallina da biliardo, insomma, e questi sono i nostri tartufi qui delle crete senesi. È un bel profumo leggermente agliaceo ma gradevole, ecco, quello è il tartufo proprio ideale, il tartufo di queste zone, il tartufo che va di più. Senta Berni, le chiedo un ultimo sforzo, mi dica come si deve conservare il tartufo, perché allora, qui ci sono varie teorie. Questa è una cosa che io la dico volentieri e spero che ascolti più persone possibile, perché certe volte anche nelle case dei tartufai si trovano tartufi conservati malamente. Il tartufo deve avere un materiale intorno che assorba l'umidità che questo sprigiona, cioè carta assorbente, scotte, questa roba qui, no? E poi deve essere chiuso ermeticamente in una caraffina, in modo che non vada via tutto il profumo, non esali tutto, ecco. Però, allora, diciamo questo, il tartufo è buono appena trovato, certo. Poi da lì inizia la fase di chiaramente di calo di tutte le qualità del tartufo. E se si va, per esempio, dei tartufi trovati quest'anno che il terreno è asciutto, possono reggere in frigorifero anche 10-12 giorni, però dopo si ha una caratteristica particolare, il tartufo sembra di mangiare il legno, non è più certo. Quel tartufo con la sua umidità giusta e col suo valore organolettico, insomma, quale è quello del tartufo. Grazie Berni, lei è stato utilissimo a darci tutte queste informazioni, la ringrazio veramente. Allora devo ricordare che domani ci sarà l'asta mondiale del tartufo a Grinzane Cavour nel castello, è un'asta di beneficenza fatta su Grinzane e su Hong Kong. Vorrei che non venissero tenuti in conto quei prezzi che gireranno, perché è un'asta di beneficenza, per cui quelli che appariranno sui giornali quando questo tartufo, ultimo tartufo, verrà venduto, sicuramente sono drogati nel senso che è un'asta di beneficenza, quindi non sono quelli reali del mercato. Questo è molto ma molto importante. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tartufo. Sentiamo un radioascoltatore, Mauro dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Volevo solo comunicare e dire questa cosa. Ho sentito che state parlando del bianco, però io dalla provincia di Bergamo forse la gente non sa che comunque Bergamo e Lecco ci sono tantissimi tartufai e c'è una produzione di tartufo nero abbondante, anche di Melano Sporum, che non ha niente a che invidiare al Melano Sporum che si trova in Umbria. Sì, ma stiamo parlando di tartufo bianco, quindi prendiamo, atto. Si trova anche nella provincia di Bergamo, chiaramente nella bassa, verso comunque sì, in pianura si trova anche il tartufo bianco. Bene, scopriamo sempre di più che tutta Italia è ricca di tartufi, meno male viene da dire, almeno c'è questa ricchezza, potremmo così magari venderlo per pagare il debito pubblico, potrebbe essere una soluzione. Bene, abbiamo con noi ora un grandissimo chef, appunto, che ha sede ad Alba, anche se non è piemontese, anche se non è di Alba, però sicuramente ormai conosce molto bene il tartufo, Enrico Crippa del ristorante Duomo di Alba. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti Enrico, tu sei arrivato ad Alba, come dicevo, un po' la capitale, c'è anche grandissima ristorazione, tantissimi ristoranti, e io ti chiedo, cioè tu hai portato dei piatti innovativi, e qual è stata la reazione? Poi ci dici un piatto, magari senza raccontarcelo, però dirci più o meno in che cosa consiste un piatto, come posso dire, innovativo sul tartufo che tu hai portato nella città. Sì, è molto curioso perché in effetti quando si tratta di tartufo bianco la gente in questo periodo ancora di più viene a visitare le Langhe e vuole mangiare il tartufo bianco. Quando si parla di tartufo bianco è difficile associarlo a qualche cosa di creativo. La gente, forse anche in un periodo come quello attuale, vuole sicurezza oramai nel piatto e ancora di più quando assaggia un prodotto come il tartufo bianco rimane radicalmente sulle tradizioni, perciò tagliolino, uovo, carne cruda. Noi abbiamo alcuni piatti inseriti appunto nel menù tartufo che proponiamo ogni stagione in questo periodo. Uno interessante che mi piace molto e so che anche a te farebbe gola perché amante dei risotti come sei tu, proponiamo quest'anno un risotto al cardamomo nero e tartufo bianco, un abbinamento strano nella mente ma molto interessante al palato. Senti, ti voglio chiedere una cosa, sono pieno di SMS che mi chiedono qualcosa sull'olio di tartufo. Ebbene, io sono molto negativo su questo prodotto, anzi devo dire che lo rifiuto. Tu cosa ne pensi? Assolutamente, noi qui ad Alba abbiamo una nostra legge comunale che ci vieta di usare olio al tartufo bianco, comunque anche estratto naturalmente ma sempre con un profumo fastidioso. Noi abbiamo il divieto di usarlo. È vero che quest'anno è una stagione un po' difficile, non ci sono state sufficienti piogge, non c'è stata abbastanza neve quest'inverno. Bene, oggi è una giornata non sicuramente fortunata da questo punto di vista delle telefonate. Beh, speriamo di riuscire a ricollegarci magari, però abbiamo poco tempo. Sentiamo Luciana da Roma. Buongiorno Luciana, non radioascoltatrice. Luciana? Pronto? Anche questa è caduta. Sentiamo Stefania dalla provincia di Ferrara. Buongiorno Stefania. Buongiorno, io abito a Sant'Agostino, un bellissimo comune della provincia di Ferrara, che è famoso per un bosco, il Bosco Panfilia. È un bosco molto importante dove si trova il tartufo bianco, una delle poche zone della pianura dove è possibile trovare un ottimo tartufo bianco che non ha nulla da invidiare a tutto il resto d'Italia. Ho capito, benissimo. Sentiamo Giovanni da Pordenone. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide. Prego. Io le volevo raccontare un'esperienza di conservazione che attuiamo ancora nella mia famiglia, che mi è stata trasmessa dal nonno, che faceva il maître in una catena di alberghi francesi. Lui ci ha insegnato a usare in questo modo il tartufo bianco, lo mettiamo nel riso. No, guardi, ho già capito dove si finisce, ho capito, ma guardi che si asciuga, comunque vada avanti. Lo mette nel riso. Ma la cosa che è interessante è questa, che noi non lo consumiamo, cioè non lo mangiamo, lo usiamo semplicemente per trasmettere il profumo al riso, che poi utilizziamo per i risotti. Sì, quindi... Ed è veramente una cosa straordinaria. Ma quindi, scusi, il tartufo che fine fa? Il tartufo alla fine viene gettato, perché perde totalmente le sue, le trasmette totalmente al riso. Beh, trasmette totalmente le sue proprietà al riso. Un vero peccato. Di solito però c'è molta gente che pensa di conservare il tartufo in questa maniera, poi quando va a, diciamo, a utilizzare il tartufo non come sta facendo lei, ma in altra maniera, usando il tartufo, succede un guaio, nel senso che il tartufo è asciutto e quindi ha perso anche magari tutti i profumi e tutti i sapori importanti. Grazie Giovanni. Giovanni da Pordenone. Abbiamo con noi Paolo Cerutti, che abbiamo rintracciato solo ora, lo volevo prima Cerutti, noto ricercatore di tartufi di Alba, perché gli devo leggere una cosa molto provocatoria. Questi raccoglitori saranno sicuramente privati senza partita IVA. Come può fare il ristoratore a pagare e a giustificare la spesa senza operare in nero? Cerutti, ma operano in nero i commercianti di tartufo? Un po' di nero nei tartufi può anche darsi, però c'è la possibilità di non farlo, nel senso che la legge ci permette anche ai ristoratori di farsi un carico facendosi un'autofattura e pagano un'IVA indetraibile del 21%, in questo modo qui possono, tra virgolette, farsi il carico. È un problema annoso quello perché tutti i triful house sono di tutte le specie, c'è il lavoratore in pensione, c'è l'agricoltore, c'è un po' tutte, è un bel problema. Io sono sempre stato dell'idea che il tartufo bisognerebbe farlo passare quasi un prodotto agricolo, nel senso che è ora che la finiamo di andare per tartufi con una ricerca così esasperata. Il Trifulao dovrebbe diventare colui che fa qualcosa per far crescere i tartufi e non solo colui che va a cercarli e cerca di trovarli prima degli altri. Questo sarebbe importante anche per avere un albo dei Trifulao, che è qualcuno che lavora il bosco, che lo fa crescere, che lo fa diventare adatto per fare i tartufi. E questo potrebbe risolvere anche problema fiscale. Senti Paolo, però ci sono stati vari tentativi che sono abortiti proprio di dar vita a questa realtà, anche in Parlamento ci sono stati tentativi di presentazione di leggi che andassero a disciplinare il discorso del commercio dei tartufi. Ma perché si tende sempre a tutelare troppo il cercatore di tartufi, cioè il cercatore di tartufi è un bacino di voti pazzesco e quando qualcuno si mette in qualche modo contro diventa difficile, però anche il Trifulao deve rendersi conto che le tasse bisogna pagarle, questo però è un problema grosso. Se lei viene nelle fiere c'è un sacco di gente che fa finta di essere Trifulao e vende i tartufi e poi in effetti Trifulao non sono, cioè nel senso che gente che Trifulao stanno nei boschi, non stanno nelle fiere a vendere i tartufi, capisce? Cioè, facendo finta di essere Trifulao ho capito. Vendono i tartufi senza emettere uno scontrino. Paolo, un'ultima cosa velocissima, qual è il prezzo medio diciamo di questa settimana ad Alba? Dipende molto dalla qualità dei tartufi, mediamente possiamo parlare da sui 200-300 euro al letto, però siamo in un momento difficile, è difficile trovarli ma poi è difficile anche venderli perché c'è un mercato a livello internazionale che crea ancora un po' di domanda, ma da noi la gente ha quasi paura a chiedere i tartufi nei ristoranti. Quando si parla di prezzi di 400-500 in certi ristoranti la gente fa fatica, cioè il momento non è adatto. Certo. Io sono dell'idea che quello che ha rovinato un po' il mondo del tartufo è stato l'avvento dell'euro, perché Oggi sul mercato si sono pagati ancora dei tartufi ai cavatori a 250, ma se ci fosse la lira a 500.000 lire non si sarebbero assolutamente pagati. Grazie Paolo di questo intervento chiarissimo. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento anche lunedì con la presentazione della guida dei ristoranti del Sole 24 Ore alle 17.30 nei locali appunto della sede del Sole 24 Ore in via Monte Rosa al 91, e vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.15 e tutti i giorni con la pillola delle 11.05 e delle 23.05. Buon weekend da Davide Paolini. Fiorfiore Coop, metti a fuoco la bontà. Vi ha presentato il Gastronauta.